la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo giovedì 25 di maggio 16:30 primi 57 secondi in diretta da Milano, dagli studi Radio 24 ovviamente vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta o in podcast. Oscar Giannino vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar radio24.it, e vi annuncio di che cosa parliamo oggi. Il fatto proprio più clamoroso del giorno, oltre alle due banche venete che sono nei guai fino al collo per il miliardo di euro da privati che la Commissione Europea chiede e che non ci saranno, quindi bisogna vedere adesso che cosa ci si inventa per non mandarle in mail-in, ma riguarda la clamorosa bocciatura che il TAR del Lazio ha riservato alle procedure di nomina che il Ministero dei Beni Culturali, per fortissimo impulso del Ministro Franceschini, aveva fortissimamente innovato nel 2015, chiamando con procedure di selezione nuove alla testa dei musei nazionali che erano stati individuati anche protagonisti della gestione dei beni culturali e museali di paesi europei, e immediatamente più polemica, molto violenta, la troverete sui giornali di oggi. Diciamo che il mondo si spacca in due tra chi dice ha ragione il TAR. Vedremo, proverò a sintetizzarvi le ragioni che spingono il TAR ad accogliere, sia pur non integralmente, ma le impugnative che erano state presentate per l'esclusione dalla procedura di nomina di alcuni candidati, una parte quindi del mondo, sia della politica che del diritto amministrativo, dice ha perfettamente ragione il TAR, il bando era scritto male e non erano indicate con precisione le deroghe di cui ci si è avvalsi nella procedura di selezione e di nomina. Ma dall'altra parte c'è l'insurrezione di un altro pezzo del mondo della politica che dice beh, l'Italia diventa irriformabile, la volontà di procedere alla riforma e di estendere la selezione era manifesta da parte del ministro. In questo caso bisogna iniziare a pensare quindi che se l'estensione dei testi in cui si traducono la volontà di riforma diventa monopolio solo di coloro che scrivendolo in un modo o nell'altro precostituiscono le basi per il loro annullamento, entriamo in una situazione nella quale obiettivamente il paese diventa irriformabile. Allora, di che cosa si tratta? Provo, prima di presentarvi i due ospiti, sintetizzarlo. Il TAR del Lazio ha bocciato, per via dei ricorsi che accoglie, le nomine di 6 dei 20 direttori dei supermusei nazionali, però poiché si pronuncia nel merito dell'intera procedura di selezione, bisogna intendere, infatti così è, che siano a oggi, da subito, in attesa che la posizione del Consiglio di Stato magari accolga la sospensiva della sentenza del TAR, però vengono praticamente congelati da oggi i 20 super direttori. E naturalmente il ministro Franceschini ha reagito durissimamente, ha detto faremo subito appello al Consiglio di Stato, io sono un avvocato, bisogna fare opposizione alle sentenze di merito di fronte al giudice di secondo grado, ma ha anche ammesso, preferisco non dire altro, perché è chiaro che la figuraccia internazionale di fronte all'intero mondo della cultura, dopo aver chiamato personalità di primo rilievo, avergli fatto vincere la selezione, avergli affidato principali musei italiani, oggi al mondo arriva il segnale che nessuno può prendere più sul serio una analoga iniziativa da parte dell'Italia. Allora, i direttori che sono interessati a questa sentenza sono Peter Assmann del Palazzo Ducale di Mantova, Martina Bagnoli, le Gallerie Estense di Modena, Paolo Giulierini dei Musei Archeologici Nazionali di Napoli, Carmelo Malacrino di Reggio Calabria, Eva degli Innocenti di Taranto, e il direttore del Parco Archeologico di Paestum, Gabriel Zuchtriegel. C'è chi dice sì, c'è chi dice no, ma insomma, come vedete, questi sono quelli specificamente toccati dalle impugnative accolte dal TAR, ma in realtà il giudizio riguarda tutti e 20. Tentiamo di sintetizzare, e spero di non commettere errori tecnici, perché ho letto e riletto la stamattina le 57 cartelle in formato A4 di una delle due sentenze, e sono molto complesse perché rinviano a una stratificazione di norme molto complicate nel tempo, ovviamente, per giustificare la decisione che il TAR del Lazio ha assunto. Però in linea di diritto le impugnative e l'annullamento quindi delle nomine dei superdirettori viene accolto dal TAR per tre ordini di ragioni. La terza è quella che viene citata dai giornali come prima, cioè quella che fa più notizia, e cioè il fatto di aver ammesso alle procedure di selezione cittadini non italiani, europei ma non italiani. E il TAR motiva l'accoglimento delle impugnative avverse alla legittimità della partecipazione alle procedure di selezione di cittadini non italiani il fatto che il decreto ministeriale che ha istituito la commissione affidandogli anche i criteri per il punteggio e il giudizio dei candidati non ha derogato esplicitamente all'articolo 38 del testo unico del pubblico impiego, nel quale si specifica con grande precisione che i cittadini appartenenti all'Unione Europea possono sì partecipare alle procedure di selezione anche per la pubblica amministrazione, ma non a quelle che configurino l'attribuzione di poteri pubblici dirigenziali, come in questo caso. Siccome non c'è la deroga esplicita, dice il TAR, quei candidati che hanno inoltrato domanda di nazionalità non italiana, quei candidati non potevano essere ammessi alla selezione. Dopodiché ci sono altri due ordini di valutazioni che il TAR svolge e che lo spingono a respingere come illegittima la procedura seguita. Quindi non solo il no chiaro e forte ai direttori stranieri che sono stati nominati e i cui risultati, come anche ai direttori italiani nominati con questa procedura, hanno riempito i giornali per il miglioramento della gestione che si è visto in pochi mesi, ma al di là di questo ci sono altri due ordini di ragioni. La sentenza entra nel merito innanzitutto di come la Commissione ha deciso il peso dei diversi criteri di giudizio tra titoli e esperienze precedenti e le ha attribuite ai diversi candidati. Entra specificamente, dettagliatissimamente nel merito su come sono state procedute, come si è proceduto a selezionare prima la decina di candidati e poi la terna che veniva indicata al ministro per la scelta finale. E il giudizio del TAR è che i criteri seguiti dalla commissione nominata ad hoc sono stati molto discutibili, non perspicui, non tali da garantire una perspicua ed equa comprensibilità da parte di chi è stato escluso con punteggi che hanno variato per frazioni di 100 punti complessivi attribuiti, pesando tutti i diversi criteri che hanno concorso al giudizio. Quindi criteri di giudizio magmatici li definisce in un passaggio la sentenza. Terza cosa, nelle procedure di selezione si è proceduto poi a incontrare i candidati via Skype e questa facoltà che la Commissione ha perseguito contrasta, secondo il TAR, con le indicazioni chiarissime che sono nel testo unico del pubblico impiego, per il quale le procedure di incontro degli ammessi alla selezione devono comunque avvenire con piena verbalizzazione A, B e con libertà di tutti, di coloro che volessero assistere a poterlo fare. Ecco, diciamo, queste sono le tre ordini di ragioni che il TAR, dopo aver a lungo giustificato con la giurisprudenza la sua facoltà di poter entrare in un giudizio tanto dettagliato come quello che fa sui punteggi attribuiti sullo Skype eccetera eccetera, spinge il TAR a dire l'intera procedura, come vedete, non sta in piedi. Durissima reazione di Renzi, che ha detto abbiamo fatto benissimo a cambiare musei, abbiamo fatto malissimo a non cambiare i TAR. Dall'altra parte invece invocano le dimissioni dei nuovi direttori figure diverse. Da una parte Vittorio Sgarbi, che dice in buona sostanza la deroga per far partecipare i candidati internazionali non c'era, e quindi il TAR ha ragione. E naturalmente anche contestatori storici della gestione franceschina dei beni culturali, per esempio lo storico dell'arte Tommaso Montanari, che ha dichiarato la riforma è stata affrettata e fatta tecnicamente male, e il problema non è fare ma è fare bene, e non è un problema di nazionalismo, ha aggiunto, però è curioso che si sia chiamato a dirigere gli uffici o altri musei fondamentali per la cultura italiana chi non ha mai letto la Costituzione italiana. Le posizioni di Tommaso Montanari o del professor Setti sono notissime, non ve le devo ricordare. Allora, tentiamo adesso con i nostri due ospiti di capire come leggono loro la sentenza. Ha ragione il TAR oppure è da parte di chi ha scritto anche le norme un sabotaggio? Che cos'è? Tenete conto che era larghissimamente, si opponeva a questa riforma la struttura amministrativa del MIBAT, che ha vissuto come un affronto il fatto che si chiamassero stranieri alla selezione di concorso. I nostri due ospiti, abbiamo Luigi Oliveri, dirigente amministrativo della provincia di Verona e che anima con interventi su molti blog e in pubblico il dibattito su le complicazioni e le contraddizioni di questa selva che è il diritto amministrativo nel nostro paese. Grazie di essere con noi, Oliveri. Buonasera, grazie a voi. E Patrizia Sproni, che abbiamo sentito poche settimane fa quando finalmente abbiamo riferito di questa ottima iniziativa che è l'inizio della sperimentazione per la redazione di criteri omologhi e che confrontano e che consentono quindi il confronto dei bilanci proprio dei musei italiani, realizzata accogliendo da parte del Ministero una proposta, e una proposta anche tecnica di redazione di questi primi bilanci perspicui e con criteri analoghi e omologhi fatti da Civicum. Patrizia Sproni, che è la presidente di Confcultura, della Fondazione Industria e Cultura e Confindustria, la Fondazione Museo Marino Marini a Firenze. Buon pomeriggio e grazie a Patrizia Sproni. Buon pomeriggio e grazie a voi. Iniziamo dalle questioni formali e tecniche del diritto. Luigi Oliveri, lei che dice del triplice ordine di argomenti con cui il TAR boccia in radice gli atti con cui il ministro Franceschini ha posto in essere questa nuova procedura di selezione? Allora, senza potersi pronunciare sul fatto se la sentenza sia corretta o no, lo stabilirà il Consiglio di Stato naturalmente. I tre profili evidenziati traggono spunto sicuramente da una disposizione normativa che è carente della specificazione dell'intento che aveva il Ministro. Era abbastanza chiaro l'intento di riferirsi all'ampliamento delle professionalità, cercando di reperirle anche dall'estero, nelle dichiarazioni, ma anche diciamo nella norma fondamentale che è il cosiddetto decreto sul bonus start, no? Però il TAR, quando osserva che non c'è una corretta, profonda deroga al principio secondo il quale per le diciamo, posizioni dirigenziali possono partecipare alle selezioni pubbliche soltanto cittadini italiani, effettivamente coglie nel segno, meno che il riferimento alle procedure internazionali, che è contenuto nella legge e del quale parla anche la sentenza del TAR, non possa essere valutato in secondo grado come quello spunto che poteva lasciare intendere la volontà di aprire la procedura anche a soggetti esterni. Questo è un elemento che potrebbe diciamo, prestarsi ad una interpretazione estensiva. Direi. Perché nella testualità della sentenza, il TAR dice il decreto ministeriale che attua il principio generale del bonus act parla nell'individuazione delle competenze e dei titoli per la procedura di selezione esplicitamente anche di eventuali esperienze internazionali, ma parla solo di esperienze internazionali che possono essere state realizzate benissimo da cittadini italiani, non fa alcuna menzione esplicita di candidati non italiani, è così? Esattamente, non è stato fatto il collegamento diretto tra la volontà di un'esperienza internazionale e la nazionalità del soggetto che è titolare di questa esperienza. Quando, le faccio un'altra domanda, quando il ministro Franceschini ha detto stamattina, resto sorpreso da avvocato perché la facoltà di candidarsi a cittadini europei è confermata dalla giurisprudenza europea, quindi ordinamentalmente superiore rispetto alla norma a cui non avremmo derogato esplicitamente nel nostro decreto ministeriale, coglie nel segno e a fondamento questa opinione dell'avvocato, in questo caso e non del ministro Franceschini, oppure no, secondo lei, Oliveri? Nel merito, come termine generale, direi di sì, perché i principi del Trattato europeo sappiamo che sono quelli della libera circolazione, no? Del lavoro, delle merci, dell'impresa, e quindi da questo punto di vista sì. Il fatto è che però poi il giudizio davanti al TAR è molto tecnico e basato esclusivamente su documenti e le norme. Se la norma non traduce il principio, occorre uno sforzo interpretativo da parte del giudice che risalga al principio, ritenendolo, diciamo il principio del Trattato europeo in questo caso, ritenendolo comunque prevalente su una norma che non è stata così precisa nell'attuarlo. Questa è un'operazione che potrebbe anche essere effettuata in secondo grado, quindi diciamo che il ministro Franceschini afferma una motivazione che sta in piedi, che è oggettivamente possibile portare avanti nel giudizio di secondo grado. Infatti questo profilo, secondo me, è quello che più facilmente potrebbe essere risolto davanti al Consiglio di Stato. Mentre invece quello di Skype, per intenderci, è quello dei i punteggi. Quello di Skype è molto bello perché, francamente, qui faccio una piccola parentesi, incontriamo certe volte i problemi di modernizzazione della pubblica amministrazione. No? Francamente, poter consentire a qualcuno di fare un colloquio di lavoro attraverso Skype, le aziende lo fanno da moltissimo tempo, non lo inventiamo certamente noi. Allora, lì probabilmente viene messo sotto accusa la Commissione di un fattore formale, non hanno verbalizzato, cioè il colloquio tramite Skype, e forse non hanno reso noto quando questo colloquio si sarebbe tenuto. Allora, la sentenza non dice che Skype non va bene. No, certo. Probabilmente era più prudente, non so, registrare il colloquio mentre veniva svolto su Skype, utilizzare anche altri strumenti appunto di questa natura, o fare lo sforzo di verbalizzarlo, ma magari il verbale c'è, non è stato esibito, e quindi anche questo potrebbe essere un elemento che si possa valutare meglio in sede di Consiglio di Stato. Il problema in questo caso, l'evento, questa sentenza, rivela secondo me alcuni altri aspetti che sono più di sostanza rispetto a quanto avvenuto, e sono questi. Allora, in primo luogo, appunto, i problemi di modernizzazione dei processi. Qua bisogna capirci quanto è estesa la discrezionalità e la disponibilità ad innovare della pubblica amministrazione, perché se si trova qualche amministrazione che tenta, come in questo caso, magari anche malamente, per carità, ma di introdurre elementi che sembrano innovativi nella pubblica amministrazione, ma nei rapporti tra privati non lo sono per niente, insomma, arrivare continuamente alla sentenza che taglia carne e ossa, che non va mai bene, è un problema sicuramente. Questo senza voler evidentemente dire liberi tutti, va bene qualunque cosa venga fatto. No, fatta. Però l'effetto è questo. Esatto, allora, però una verbalizzazione insieme anche a colloquio come Skype consentirebbe ad esempio a molte più persone di partecipare ad un concorso, perché magari non si debbono spostare e fare centinaia di migliaia di chilometri, e rendersi disponibili ad un colloquio online andrebbe bene. Ma in secondo luogo c'è anche un altro problema più di fondo, che è quello del ruolo dei TAR. Diciamo che il dibattito sta prendendo una china che non è simpaticissima, bisogna cambiare i TAR, bisogna abolire i TAR, non è evidentemente questa la soluzione. Di abolizioni frettolose di pezzi dello Stato ne abbiamo visti fin troppi, secondo me, in questi mesi e in questi anni. Ma magari Abortite anche. Anche abortite, esatto, non andate esattamente a buon fine, io lo posso dire io appunto che ci lavoro nelle province. Ecco, si potrebbe cambiare la prospettiva in qualche misura, cioè puntare di più a reintrodurre qualcosa che è stato eliminato nel nostro ordinamento, cioè il controllo preventivo sugli atti, e stabilire regole di ingaggio. Cioè, io faccio il bando, sono il Ministero della Cultura, faccio un bando innovativo, come in questo caso si vuole che sia innovativo, faccio esaminare in prima battuta da un soggetto che possa essere il Consiglio di Stato, possa essere il TAR, possa essere la Corte dei Conti, si stabilisce, questo soggetto mi dà un bollino blu, no? Va bene sul piano della legittimità e anche, se si vuole, con alcuni aspetti limitati di merito, perché la gran parte del merito è di natura politica, dopodiché se ha il bollino blu e io come Ministero mi attengo poi al parere reso in via preventiva in sede di controllo preventivo, potremmo immaginare che in questo caso estendere anche ai decreti ministeriali il parere preventivo che, per esempio, il Consiglio di Stato dà nel nostro ordinamento ai decreti delegati quando ci sono leggi deleghe. Cioè, prendere, esatto, con una regola d'ingaggio che sia questa: una volta che il parere ci sia e che venga rispettato in sede attuativa, si limitino i poteri, per esempio, okay, di ricordo. Come vedete, nuova. Luigi Oliveri, anche questa volta non solo entra nel merito e dice qui i problemi formali sollevati dal TAR ci sono, anche se la sostanza è che diventa un paese irriformabile, però offre anche la soluzione. E io devo dire, mi convince molto la soluzione. Traffico, poi torniamo con l'opinione di Patrizia Sproni. La versione di Oscar. Allora, la sentenza del TAR che annulla, dichiara illegittime le procedure di nomina dei 20 super dirigenti della fascia più alta dei poli museali e musei nazionali, la grande riforma di Franceschini, figuraccia mondiale di fronte al fatto che abbiamo chiamato e nominato gente con esperienza straordinaria, come avviene anche negli altri paesi, guardate che ci sono americani che dirigono grandi musei in Germania, tedeschi che li dirigono in Gran Bretagna. Ma il TAR ha questi tre ordini di ragioni, abbiamo tentato di spiegarvele, è un intrico. La sostanza è che siamo un paese che appare irriformabile, perché l'intenzione era chiarissima, esattamente quella che è stata perseguita, ma le norme pare che fossero scritte male. Cosa pensa Patrizia Sproni della sostanza di questa vicenda, non del dettaglio della foresta di argomenti normativi che abbiamo sollevato per tentare di spiegare ai nostri ascoltatori in base a cosa si decide e non si decide nel nostro paese? A Sproni, che dice? Mi sembra che siamo davanti alla solita storia del dito e della luna, no? La sentenza del TAR ci sta dicendo sostanzialmente in questo caso che il nostro paese è ormai ingovernabile dal punto di vista legislativo. Lei stesso, Oscar, ha parlato di stratificazioni numerosissime, superfettazioni, leggi incomprensibili, leggi interpretabili e reinterpretabili che si prestano perfettamente ai ricorsi. Quindi sono fatte per essere ricorse. Ecco, questo è il problema. Oltretutto mi viene un po', come dire, da sorridere, perché penso che questi direttori dei musei sono stati nominati nel dicembre del 2015. Sono al lavoro da 15 mesi e oggi gli viene detto che, scusate, ci siamo sbagliati. Allora, il problema non è il TAR, perché il TAR si è rifatto al famoso, appunto, articolo 38 del testo unico sugli impiegati pubblici, lo ha citato in maniera chiara. Ma lei stesso ha parlato di 57 pagine per raccontare una sentenza, no? Quando noi ci troviamo davanti alle gare pubbliche e abbiamo almeno 10 pagine di visto, con rimandi continui a commi, virgole, leggi, eccetera, eccetera, in cui nessuno ovviamente ci capisce niente, anche per come sono scritti, è evidente che questo è il paese ancora degli azzeccagarbugli. Allora, io aggiungo, ed è un paese anche in cui, voglio dire, la struttura amministrativa del MIBACT si sente confermata, cioè noi solo, che è la grande tesi del professor Settis, lo dico con rispetto ma non condividendo nulla della sua impostazione, per cui solo lo Stato resta proprietà del patrimonio ma spesso non è capace di gestirlo, e i numeri di questi direttori dicevano che stavano facendo bene. Tuttavia, ne discuteremo anche domani mattina, attenti a noi due. Intanto grazie a Luigi Oliveri e Patrizia Sproni. Questa sentenza è come al solito a metà, se la volete prendere nella forma va bene, allora sono dei somari, chi voleva farlo doveva farselo scrivere bene. Nella realtà la sostanza è che spesso il sabotaggio viene da chi l'Italia non la vuole cambiare. Mi prendo la responsabilità di pensarlo e di dirvelo da anni, perché a scrivere i testi sono solo loro, i magistrati amministrativi. Buona continuazione su Radio 24.